tredicesima edizione di Kilowatt a San Sepolcro dal 18 al 25 luglio. Ne parliamo con il direttore Luca Ricci. Ci sei, Luca? Sì, buongiorno, salve a te e agli ascoltatori. Allora, raccontaci un po', intanto un po' la storia di Kilowatt, di cosa si tratta, qual è il suo progetto. Sì, Kilowatt è un festival legato alla scena contemporanea, si tiene da 13 anni a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, un paio di ore da Roma, sta proprio al confine fra Toscana, Umbria, Marche e Romagna, quindi proprio lungo la E45, insomma la strada che da Orte va a Ravenna. È un festival che diciamo si è fatto conoscere soprattutto nel panorama nazionale dei festival per un progetto credo abbastanza originale, anche se forse non spetta a me dirlo, che è quello per cui un gruppo di cittadini, di spettatori abitanti in questo territorio che si chiama Alta Valle del Tevere, scelgono un pezzo del cartellone del festival, cioè sono persone che non sono addetti ai lavori, operatori teatrali, culturali, coreografici, ma sono persone che nella vita fanno, non so, gli operai, i farmacisti, i direttori di banca o qualunque altra cosa, che tutti i mercoledì sera durante l'inverno si incontrano, discutono, visionano più o meno 300 materiali e scelgono 9 spettacoli da programmare al festival. Poi il festival è anche altro, insomma, oltre a questo è tutto un programma di 38 spettacoli fra musica, teatro e danza, insomma, quindi una parte significativa dei quali invece sono poi scelti dalla direzione artistica. Però insomma questo progetto dei visionari, così si chiamano questi spettatori come la mia trasmissione di cinema qui a Radio Onda Rossa, esatto, infatti questo gruppo di visionari, però non ci siamo copiati reciprocamente, la sua trasmissione c'ha già un po' di storia, il nostro progetto c'ha 9 anni se non ricordo male, quindi insomma siamo, come dire, al di sopra di ogni sospetto reciproco, ecco. E senti, da quante persone è composto questo gruppo di cittadini? Allora, questo gruppo varia di anno in anno perché non è sempre lo stesso, ovviamente si rinnova, ci sono persone che si aggiungono, persone che lasciano, via dicendo. Quest'anno, che erano un po' meno del solito, mi pare che fossero 28, però altre volte erano 34, 35, poi spesso iniziano che sono anche un po' di più, ma è un lavoro molto complesso anche, insomma, una trentina di persone, un bel corpo. Sì, insomma, interessante, poi alla fine poi discutono, litigano, però in fondo il valore più ancora che la scelta finale, che comunque negli anni hanno fatto scelte anche controcorrente particolarmente interessante, è proprio il percorso, cioè comunque che dei cittadini mettano insieme per rimettere lo spettacolo dal vivo, la cultura, il teatro contemporaneo al centro di una discussione proprio sul proprio essere cittadini in un certo senso. Sì. Senti, per quanto riguarda i finanziamenti per esempio del festival, visto che è una cosa nata dai cittadini stessi, come funziona? Allora, guarda, il festival è sostenuto principalmente dalla regione toscana, dal Ministero dei Beni Culturali e dal Comune di San Sepolcro, che dà un contributo sia economico che anche di spazi, perché insomma ci sono molte facilities che poi il Comune favorisce. E poi Kilowatt è anche il capofila di un progetto europeo di cooperazione su larga scala, ed è questa una rarità, perché insomma da quando esiste il programma cultura dell'Unione Europea, e voglio dire che sono 8-9 anni, sono 5-6 insomma i capofila italiani che sono riusciti a portare a casa il risultato, chiamiamolo così, e proprio lo è attraverso un progetto che si chiama BeSpectActive, che è legato al concetto di spettatore attivo, cioè il tentativo un po' di diffondere questa pratica del ruolo attivo dello spettatore a livello europeo. Quindi sono 12 partner, 9 paesi, e quindi anche da lì arrivano altre economie che sostengono la struttura e poi il festival stesso, insomma. Senti Luca, come è strutturato il festival? Ci sono più luoghi e poi gli orari durante la giornata come sono riempiti? Allora, guarda, il festival, come ti ho detto, comprende quest'anno 38 proposte, quindi in 8 giorni, quindi il calendario è molto ricco, intenso, insomma proprio tutto non si riesce mai a vedere, però insomma in un certo senso è bello anche in un festival questa possibilità di scegliere, no? L'abbondanza della proposta. Quindi più o meno ogni giorno il nostro programma comincia alle 18:30 e si va avanti fino all'1 di notte. Ci sono ogni giorno 4-5 spettacoli e in vari spazi, perché ci sono due ex chiese trasformate in teatri che sono coinvolte nel progetto. C'è un palco in piazza che è una vera e propria spiaggia, perché qua appunto il mare non c'è, però c'è il Tevere, però non fa lo stesso effetto. anche se qua è pulito rispetto che a Roma, insomma. E, però insomma, nella piazza centrale di Sansepolcro abbiamo organizzato di fronte a questo palco tutte delle sedie sdraio, degli ombrelloni, insomma un ambiente marittimo molto buffo e divertente. E poi c'è un altro palco che invece, altri due palchi, scusa, uno più grande e uno più piccolo, legati invece agli eventi musicali. Quindi sono cinque spazi che sono attivi in contemporanea. Di solito, come ti ho detto, il programma comincia alle 18:30 ogni giorno. Tutto questo programma poi si trova ovviamente sul sito del festival, e ci sono alcune giornate specifiche dove ci sono invece già dalla mattina una serie di convegni. Una di queste è il 21 e 22 luglio, dove c'è questo convegno europeo sullo spettatore attivo, e quindi insomma poi ora non entro troppo nei dettagli, però okay. Insomma ci sono molte giornate in cui il programma comincia già dal mattino. Due curiosità, Luca: avete un archivio fruibile degli spettacoli che sono passati da voi, e se è un festival, come spesso succede, sta succedendo sempre di più, i festival non solo di teatro ma anche di cinema, e cercano di essere attivi tutto l'anno per non esaurirsi in quei giorni, insomma, di festival vero e proprio? Allora, guarda, la prima domanda, la risposta è sì, nel senso che nel nostro sito chiunque può consultare tutte le edizioni precedenti del festival, tutti i 12 anni precedenti, sì. E addirittura poi in più, siccome poi io personalmente ho proprio una vocazione da archivista, nel senso che questo è stato il mio primo lavoro tanti anni fa ormai, in realtà anche tutti i materiali arrivati ai nostri visionari, e ti parlo di più di 2000 materiali, sono sì. Tutti schedati, non online, questo per la verità, però noi qua li abbiamo tutti quanti schedati, abbiamo tutte le schede di artistiche delle compagnie, tutte le schede che hanno fatto i nostri visionari a proposito della visione di quel materiale che hanno fatto, quindi anche per tesi di laurea che sono capitate, insomma, questo qui è tutto un materiale fruibile. E invece online c'è proprio le programmazioni del festival di questi 12 anni. Sì. Invece la seconda domanda, sia su quanto il festival poi si estenda durante tutto l'anno, la risposta è sì, siamo anche noi in questa linea d'onda che tu segnalavi, nella misura in cui il comune di Sansepolcro ci ha assegnato due anni fa un teatro, una di queste due chiese di cui parlavo prima, che sono appunto quelle dove si tiene il festival, che è uno spazio molto bello perché è molto, molto adatto per il teatro contemporaneo, quindi con gradinata, legno a terra, tappeto danza, insomma è anche un bello spazio come dimensioni, come grandezza, come altezza, e la Regione Toscana ha riconosciuto che il lavoro di Capotrave Kilowatt, che è il nome della nostra associazione, come una delle residenze creative, ce ne sono 20 riconosciute in Toscana, e quindi quello che noi facciamo spesso durante l'anno, cioè spesso, sempre lo facciamo da settembre fino a maggio, è ospitare degli artisti che rimangono qui per una quindicina di giorni ciascuno per mettere in prova il loro spettacolo, provare, entrare in relazione anche col territorio, e concludono di solito il loro lavoro con una prova aperta. Ne ospitiamo una quindicina all'anno di questi progetti, e quindi insomma in questo senso il teatro è sempre vivo e ci sono sempre anche aperture e possibilità di incontrare gli artisti durante tutto l'anno. In chiusura, ci lasci i riferimenti internet per la programmazione di quest'anno? Sì, allora i riferimenti sono www.kilowattfestival.it, altrimenti vi do anche il sito invece del progetto europeo, dove c'è anche meglio spiegato il progetto complessivamente e anche il calendario di questo specifico convegno di cui ho parlato prima, che è www.bespectactive, che è un po' difficile da scrivere, ma detto traslato in italiano è bespectactive.eu. E poi ovviamente entrambi, sia Kilowatt Festival che Bespectactive, hanno la pagina fan su Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, insomma tutti i vari social di cui ciascuno degli ascoltatori può essere appassionato. Bene, allora ricordiamolo, 13ª edizione di Kilowatt a Sansepolcro in provincia di Arezzo dal 18 al 25 luglio. Ci vediamo questo fine settimana, Luca. Bene, sarà un piacere averti davvero. Un abbraccio. Un abbraccio a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao.